Letture di Radio 24. Il cibo può rendere felici ed è la sola cosa al mondo che, almeno per qualche istante, permette di dimenticare tutte le pene e i dolori. Questa frase, pronunciata da una delle protagoniste della Cena degli Addii, può essere considerata il manifesto del nuovo libro della scrittrice giapponese Ito Ogawa, ancora una volta dedicato al piacere del cibo, come il precedente romanzo, Il ristorante dell'amore ritrovato. 7 racconti nei quali i protagonisti riescono a superare un momento difficile e a ritrovare la voglia di andare avanti, proprio grazie a un piatto particolare, come avviene per Goto e Yamashita, la coppia in crisi, protagonista del racconto che dà il titolo al libro. Nonostante abbiano ormai deciso di lasciarsi, lui insiste per mantenere la promessa fatta molto tempo prima, ovvero festeggiare il 40° compleanno di lei in un ristorante della penisola di Noto. Un'ultima cena assieme, per rendere meno triste il momento della separazione. Ci siamo seduti l'uno di fronte all'altra, pronti a condividere la cena. Poi abbiamo chiesto al gestore della pensione di portarci del sakè ben caldo. «Dai, brindiamo!» mi ha esortato Yamashita, sollevando il bicchierino. «Brindare? E a cosa? Forse alla nostra separazione? O forse alla mia ultima serata prima di diventare una quarantenne? Non riuscivo ancora a rendermi completamente conto che a partire dall'indomani, noi due non ci saremmo rivisti mai più. Eravamo stati insieme per oltre 10 anni. Lui era per me come l'aria. Il fuoco della passione ormai si era spento, ma era capace di assicurarmi una dolcezza viva e stimolante come acqua zuccherina. E quell'acqua, a dire il vero, non ero ancora riuscita a espellerla. «Prego, signori, mangiate prima che si raffreddi». La voce del gestore della pensione mi ha riportata alla realtà. Una splendida frittura di matsutake era appena stata servita in tavola. Ne ho assaggiato subito un pezzo e contemporaneamente a un leggero e piacevole scricchiolio ho sentito propagarsi all'istante in tutta la bocca il tipico aroma speziato dei matsutake. Temevo fortemente che, data la situazione nell'imminenza della separazione, non sarei stata in grado di gustare appieno il sapore di quei funghi prelibati. Ma i matsutake sono i matsutake, inconfondibili e unici al mondo. «Sono contenta di essere venuta. Forse avevi ragione», ho sussurrato a fior di labbra, pur paventando di suonare affettata e opportunista. Ma Yamashita, forse perché non aveva udito la mia voce o forse perché aveva preferito far finta di non sentire, non ha minimamente accennato a replicare e ha continuato a gustare la frittura di matsutake. «Quando è assorto a mangiare», ho pensato, «quest'uomo non dice una parola». D'altra parte, per quanto insignificante, anche quella era una delle ragioni per cui Yamashita mi piaceva. Ad ogni modo, a parte i matsutake, anche le noci di jingo che guarnivano il piatto erano deliziose, grandi e abbrustolite al punto giusto. Le varie pietanze ci sono state servite lentamente, senza alcuna fretta, come a lasciarci godere appieno la serata. Erano tutte disposte in eleganti piatti e ciotole laccate a mano, squisite al solo guardarle. Il sashimi di pesce bianco consisteva in filetti di cernia fatti macerare con alga kombu. Aveva un sapore profondo, così intenso. Yamashita e io abbiamo gustato tutte quelle bontà accompagnandole con un bel po' di sake. I matsutake, arrostiti e intinti nella salsa di soia con il daikon grattugiato, erano semplicemente deliziosi. Più li masticavo e più sentivo quel sapore delicato e raffinato propagarsi non solo in bocca ma in tutto il corpo, a mo' di onda. Avevo quasi finito per dimenticare che l'uomo con il quale stavo condividendo quello splendido pasto, seduto lì di fronte a me, stava per scomparire dalla mia vita. Dopotutto mi ero ripromessa di concentrarmi unicamente sul cibo, senza pensare ad altro. Avevo giurato a me stessa che non avrei pianto. L'indomani mattina, quando ho riaperto gli occhi, ho visto Yamashita in piedi osservare il panorama oltre la finestra. Il cielo tendeva al grigio, c'erano più nuvole del giorno precedente. Forse stava già cadendo una pioggerella fine. Tutto a un tratto Yamashita si è voltato verso di me e mi ha detto con voce roca: «Buon compleanno!» Gli si era abbassata la voce, forse perché la sera prima aveva preso freddo. Ho fatto finta di niente e gli ho risposto semplicemente «Buongiorno!» E intanto ha cominciato a piovere a dirotto. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Ito Ogawa, La cena degli addii. Neri Pozza Editore, 174 pagine, 14,50 euro.